Friuli nel mondo, 173esima trasmissione dedicata agli emigrati. Canti della montagna. Il quartetto Stella Alpina di Cordenons, composto da Adriano Turin, Ettore Travanut, Donato Marson e Sergio Mion, vi dedica oggi, cari amici radioascoltatori, alcuni noti patetici e nostalgici canti alpini, che certamente avranno anche il potere di far ricordare ai valorosi combattenti della guerra 1915-18, che si sono allontanati lungo le innumerevoli vie del mondo, non solo i giorni della loro giovinezza, ma anche la loro dura vita di trincea e i luoghi dell'ardimento e del sacrificio. Ascoltate pertanto Dove sei stato, mio bell'alpino, Monte Canino, Sul rifugio bianco di neve e infine Montagnutis ribassaisi. Dove sei stato, mio bell'alpino? Trasportava Se una lacrima non più le magna, Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ermete Pellizzari.